46. Ancora un mese, poi il gelo, la neve, il letargo. Le predde grosse erano rare nella stagione fredda e le foreste intorno al lago Cayuga non facevano eccezione. Quel mese avrebbe detto a tutti se Isaac Brent era un buon cacciatore. Abbattere il primo cervo a 12 anni, come i migliori guerrieri della nazione. Mentre puliva, lo Jäger studiò la giornata che lo attendeva. Veli di bruma attraversavano il villaggio. Le grandi case di tronchi squadrati apparivano a scorci e oltre la palizzata che le proteggeva, creste di faggi squarciavano il grigio. Quando uscì, il sole era dietro le montagne e i rospi gioivano dall'aria fradicia. Tolse di tasca una piccola borraccia e versò in gola rum che sapeva di melassa e tabacco. Fece un ultimo controllo di polvere, cartucce e coltello, buttò giù un altro sorso. Poteva fare con comodo, nessuno lo aspettava, a parte il cervo che aveva sognato. Da mesi andava a caccia da solo. Non c'era molta scelta, a Cayuga. Bambini piccoli, donne, vecchi della mira incerta che non volevano sfigurare davanti a un ragazzo. Quelli della sua età cacciavano in gruppo, ma facevano tanto chiasso che non prendevano mai niente. «Non è un buon giorno per uscire nei boschi!» La voce di nonna Margaret lo colpì alla nuca. Isaac la vide e restò a distanza. Il puzzo della vecchia gli dava il volta stomaco. Stava sempre infagottata in quella coperta, seduta in poltrona, tutto il giorno e anche di notte. «C'è una macchia scura nel sole, e il vento, odora di fuoco e carogne!» Isaac si allontanò facendo scongiuri. Il sole non s'era ancora visto e il vento non spirava da giorni. Sulla strada un bimbo lo salutò con la mano. Da sopra le spalle di sua madre, Isaac accelerò il passo. Un vero cacciatore ha occhi solo per la preda. Donne e marmocchi sono inutili distrazioni. Imboccò un sentiero nel bosco che incrociava una pista di cervi, 5 miglia più a monte. Non aveva camminato 200 yard che un rumore lo inchiodò. Piedi che correvano e spezzavano rami, un trambusto che nessun cacciatore farebbe, nemmeno inseguendo un cerbiatto a rotta di collo. Isaac si nascose dietro un tronco, l'anima in tumulto. La metà destra sperava che fosse gente conosciuta, l'altra che fossero nemici. Sollevò il cane del fucile e proprio in quel momento il rumore cessò. Silenzio. Solo il lamento dei colombi in lontananza. Poi un fruscio che da un punto più in alto si moltiplicava e correva in più direzioni. Lo circondavano. L'istinto si buttò in discesa. Uno degli inseguitori urlò. Isaac riconobbe il grido di guerra del clan del lupo. Rallentò per un attimo, si voltò indietro. Con la coda dell'occhio colse un'ombra che arrivava. Non fece in tempo a spostarsi. Si ritrovò a terra. «Isaac? Fermi! È Isaac!» Era la voce di Jacob Kanatawakon, che già si rialzava e gli porgeva la mano. Subito dopo arrivò suo padre. «Dove sono Cristina e Margaret?» Comparvero altri uomini di Canayoharie, Philippe Lacroix, Jethro Canenontre e Paul Oragnateca. «Alzati, bisogna avvertire tutti, l'armata di Sullivan è a poche miglia da qui!» Isaac ignorò la mano e si tirò su da solo. Spalancò gli occhi. Era in compagnia dei guerrieri più valorosi del clan e sentì che quel giorno gli sarebbe rimasto nella memoria più di una grande caccia. Fece segno di seguirlo e si lanciò per di fiato verso Cayuga. Le notti erano fredde, contratte, un abisso buio. Sotto il peso delle coperte Klug si rattrappiva come un animale malato, la schiena e le gambe percorse dai brividi. Lungo dormiveglia, Klug cadeva addormentato appena prima dell'alba e subito un calcio nelle costole, un richiamo arrabbiato lo svegliavano. Era dura la vita del razziatore. In più c'era la faccenda della carne di cane. Non sapeva perché, ma aveva l'impressione che dopo quell'episodio qualcosa fosse cambiato. Adesso erano in avanscoperta. Non potevano accendere fuochi per cucinare. Da giorni si nutrivano di carne secca e Klug aveva un nodo al posto delle viscere. Non sognava mai. Entrava per pochi minuti in un imbuto di tenebre, quando i pensieri che correvano nella testa lo lasciavano libero. Da giorni, quello era tutto il suo sonno. Sensazione umida sulla fronte e le guance, aprì gli occhi e guardò in alto. La figura si compose a fatica, emergendo da una nebbia indistinta. Nathaniel Gordon, alto come un gigante, si tirava sulle braghe. Klug si mise a sedere di scatto, la banda esplose in una grottesca risata. Il Delaware aveva il corpo scosso da singhiozzi. Gli occhi lacrimavano, la bocca rideva e rideva, sguaiata, stridente. Dalla gola usciva un lamento, come di maiale scannato o sgualdrina indiana quando le aprivi le gambe. Nathaniel Gordon cambiò espressione d'improvviso. Tutti tacquero. «Muoviti, Klug! Sei sempre l'ultimo, sei una palla al piede. Non so chi me lo fa fare di portarti con noi». Si rivolse al resto dei compari. «Andiamo, il villaggio ci aspetta». Uno dei razziatori intervenne. «Appunto, Nat, il villaggio ci aspetta. Magari succede come a Secondaga. Un vecchio salta fuori dal nulla e inizia a spararci contro. Non sarebbe meglio aspettare anche Klug? Potremmo avere delle sorprese. Più siamo, meglio è». Nathaniel Gordon scosse il capo. «Intanto che arriviamo al villaggio, Klug ci avrà raggiunto. Anche se rimane indietro, non sarà una gran perdita». La genga si avviò lungo il sentiero che scendeva verso Cayuga. Klug si mosse più in fretta che poteva. Le ossa dolevano. Odiava rimanere indietro, da solo, in mezzo al bosco. Si guardò attorno, ansioso. Tese le orecchie, mentre le schiene dei compagni si allontanavano verso valle. Radunò in fretta le sue cose, il solo zaino sulle spalle, poi ristette per un secondo. Il fucile. Il fucile era scarico. Non era sicuro andare in giro per i boschi con le armi scariche. Depose lo zaino, caricò in fretta. La prima cartuccia cadde, spargendo il contenuto sul suolo umido. Imprecò. Completò l'operazione. Capsula, cartuccia, stoppaccio, calcare bene fino in fondo alla canna. Mise il fucile a tracolla, guardò il sentiero e si mosse. I compagni sparivano nella mezza luce dell'alba, dietro l'ultima curva. Philippe camminava piano. Passava in rassegna la colonna di profughi. Tutto era pronto per la partenza. Una cinquantina di persone, forse 60, donne, bambini, vecchi le cui braccia non avrebbero retto il peso di un tomahawk. Ragazzini che impugnavano bastoni, coltelli, qualcuno addirittura un fucile rugginoso, scarto della vecchia guerra. Buono al massimo come randello. Orognateca e Canenolte scherzavano, soppesavano quelle povere armi, suscitavano ammirazione raccontando le loro imprese di guerra. Canenolte si batté il petto con un pugno, poi lo puntò verso Philippe per indicarlo. «Vedete? Noi combattiamo al fianco di Joseph Brent e del grande diavolo. Loro si fidano di noi». Philippe passò oltre. Kanatawakon fissava gli alberi intorno, e i cespugli, anche i sassi sul sentiero, come se si aspettasse di vedere sbucare nemici in forma di lucertole. Isaac stava in cima, primo della fila, armato, accigliato, fiero. Guardava di fronte a sé e respirava gonfiando il petto. Tremava e non voleva darlo a vedere. Somigliava a Joseph da giovane, pensò Philippe. Joseph era in fondo, intento a convincere sua madre. «Te l'ho detto, Margaret, dobbiamo andare via subito. Non c'è da attendere un battito d'ali». La vecchia, avvolta nella coperta ammuffita, stringeva sé Cristina e guardava gli alberi, come Kanatawakon. «Ti dico che il vento odora di carogne, di fuoco e carogne. Non possiamo partire adesso, finiremmo dritti nella puzza e nelle fiamme». «Non tira un filo d'aria, madre, il fuoco divamperà qui se non partiamo in fretta». «Non ti riconosco più, Joseph, mi sembri un bianco. Come fai a non sentire il tanfo? Le carogne sono più avanti, sul sentiero!» Philippe sentì rizzarsi i peli delle braccia. Si avvicinò a Kanatawakon. «Cosa ti preoccupa, fratello?» «Rumori, grande diavolo. Sono deboli, ma li ho avuti nelle orecchie, ne sono sicuro». «Con tutto questo vociare, il tuo dito potrebbe essersi ingannato». «No, grande diavolo, ho addestrato le mie orecchie a non burlarsi di me. Ho sentito qualcosa sotto le voci». «Sullivan?» chiese Philippe. «No, sarebbero rumori grossi e pesanti come orsi. Questi sono insetti». Si avvicinarono a madre e figlio. Il battibecco era ancora in corso. Philippe mise una mano sulla spalla di Joseph. «Forse tua madre ha ragione», gli disse. «Strani movimenti qui intorno. Meglio andare a vedere». Joseph corrugò la fronte. «Ascolta il tuo amico, Joseph», disse la vecchia. «È un bravo Mohawk, anche se è francese». Chiamarono Orognateca e Canenonte. Dopo un rapido conciliabolo, fu deciso che la colonna sarebbe partita con prudenza e in silenzio. I cinque guerrieri l'avrebbero preceduta di mezzo miglio, ai lati del sentiero, passando rapidi da un albero all'altro. Se avessero intercettato il nemico, avrebbero cercato di sorprenderlo ed eliminarlo, mentre la colonna proseguiva il cammino. In seguito, si sarebbero ricongiunti a essa, per scortarla nel lungo viaggio. Joseph chiamò Isaac. «Sei un uomo ormai. Noi dobbiamo controllare che la via di fuga non sia pericolosa. Finché non torniamo, affido a te la protezione di Margaret e Cristina». Isaac si irrigidì, come fosse sull'attenti. Sollevò il mento e a denti stretti disse «Le difenderò». Joseph sentì un sibilo. Si volse. Philippe era accucciato dietro un albero. Annusava l'aria che scendeva dalle colline. Uno schiocco di lingua da un guerriero all'altro riunì il gruppo. Presero a salire lungo il crinale, poi Filippo fece cenno di allargarsi. Orognateca e Canatawakon si acquattarono al riparo di un grosso tronco di pino. Filippo, Joseph e Canenonte si nascosero nell'erba alta. Filippo si accovacciò, reggendosi con il fucile. Guardava il suolo, respirava lento. Klug camminava spedito. Si rese conto che poteva mettere un piede in fallo, il sentiero era in discesa, sconnesso, le spalle erano gravate dal peso della sacca e del fucile. Era stanco morto, a pezzi, e ogni passo giurava che sarebbe tornato a casa, a German Flats, a occuparsi di politica, tanto ormai la guerra l'aveva fatta, lo sapevano tutti. Dov'erano gli altri? Klug cercò il resto del drappello. Li vide 80, 90 yard più avanti. Li seguì con gli occhi, mentre affrettava il passo. Ci fu uno sparo. Una nube di fumo. Uno dei compagni cadde, gli altri imbracciarono i fucili. Un ordine secco, gridato, i suoi gettarono le armi. Dai lati del sentiero uscirono indiani. Klug fu percorso da uno spasmo freddo, sentì le viscere contorcersi. Si acquattò dietro un masso. Joseph squadrò Nathaniel Gordon. «Il tuo volto mi è familiare». L'uomo sputò per terra, sprezzante. «Non ti ho mai visto prima, non so chi sei». Il volto di Joseph era ghiaccio. «Tra poco, non avrai più voglia di sfidarmi». Orognateca levò il cappello di pelliccia dalla testa del Delaware e lo rigirò tra le mani. Canenonte puntò il dito sulla borsa per il tabacco che il Delaware portava alla cintura. Un'improvvisa consapevolezza si fece largo nella testa dei Mohawk. Il Delaware ebbe un fremito. Canenonte emise un grido acuto, terribile. Cristo, sembrava non si fossero accorti di lui. Il sentiero digradava, non era ancora giorno pieno. D'istinto, Klug provò l'impulso di girare i passi, di fuggire più veloce che poteva. Ma c'era una figura là in fondo dalla quale non riusciva a distogliersi. Sussultò. Cristo santo, era Joseph Brent, giacca aragosta e pitture di guerra. Il modo di muoversi era inconfondibile. Con la cautela di un gatto, Klug estrasse il cannocchiale. Gordon aveva una faccia terrea. Il Delaware era un muro di pietra. Il capo dei selvaggi era proprio Joseph Brent. Il cuore batteva all'impazzata. Klug sentì la fredda determinazione dell'odio muovere gli arti. Prima di chiedersi se sarebbe stato in grado di portare a termine il compito, aveva imbracciato la carabina Kentucky. Tirò il grilletto. Solo un debole suono metallico. Aveva caricato male il fucile. La palla doveva essere scivolata dalla canna mentre affrettava il passo lungo la discesa. Imprecò tra i denti, pregò che gli fosse concesso abbastanza tempo. Ricaricò con attenzione, udì delle grida, guardò a valle. La situazione precipitava. Imbracciò, puntò. L'eroe che avrebbe spacciato Mostro Brent era lì, dietro quel masso, e si chiamava Klug. Tirò il grilletto. Una nube di fumo nascose la scena. Klug sporse la testa di lato per controllare l'effetto del colpo. C'era un uomo a terra. Il Delaware lottava con un altro selvaggio, forse i suoi compagni potevano prevalere, ma le gambe di Klug decisero di fuggire, correre, un passo dopo l'altro, lui, Jonas Klug, l'uomo che aveva spacciato Joseph Brent.